Io penso che tutti noi, in campo musicale, in campo letterario, cinematografico, abbiamo degli autori o abbiamo anche dei brani che preferiamo. Ciascuno di noi avrà in mente un motivo, una pagina, una scena di un film che appena gli viene in mente subito ridesta in lui un sobbalzo. E questo è possibile anche con la Bibbia, cari amici. Certo, bisogna conoscere bene la Bibbia. Io ho sentito proclamare poco fa una frase inserita in un brano che per me è un capolavoro e che serve alla mia fede come qualcosa di straordinario. Era la conclusione della lettera agli Ebrei, capitolo 11, e dice: anche noi, dunque, circondati da una tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo, ecco questa frasetta, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù, autore, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Precedentemente si era parlato di Noè, che visse per fede, Abramo, per fede obbedì, Giacobbe, Isacco, per fede, e conclude: anche noi, circondati da questo gran numero di santi, amici, io ve lo auguro. Anche lì tra i santi avete un santo prediletto, ma un santo che conoscete bene, un santo a cui avere, con cui avere confidenza, io ve lo auguro. Circondati da questo gran numero di testimoni, i santi, avendo deposto tutto ciò che ci pesa, cos'è che ci pesa addosso? Ma è chiaro, i nostri difetti, i nostri limiti. Forse quando si era giovani e si andava in montagna, si è provato a correre un po' in montagna, ma se hai lo zaino addosso, sei buffo e non riesci a correre, devi metterlo a terra. Non riusciamo a correre se siamo zavorrati dai nostri difetti, dai nostri vizi, peggio ancora, dobbiamo deporli. E il peccato che ci assedia, è forte questo verbo, amici. Io lo paragono a una banda di cani che ti gira intorno, ti assedia e tu sei perso, ti assalgono. È così, amici. I peccati sono frutto della nostra cattiva volontà, ma sono anche frutto di Satana. Satana, senza che noi ci accorgiamo, ci circonda, come i santi ci circondano, come spero che voi siate devoti del vostro angelo custode e degli arcangeli, che ci circondano. Corriamo, bisogna correre, amici, il tempo si è fatto breve, non solo per l'età, ma anche per come sta andando il mondo. Dobbiamo correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, purché teniamo fisso lo sguardo su Gesù, perché è Lui che origina la nostra fede e che la porta a compimento. Quante volte io devo ripetere lo stesso ragionamento, o di persona o al telefono. Signora, lei vuole una benedizione dell'esorcista? Venga, ma lei va a messa? No. Scusi, la benedizione, per usare una terminologia dialettale lombarda, l'attacca minga, eh? La benedizione non attacca se tu vivi nel peccato. Non puoi mettere dello scotch dove c'è della terra. Non attacca. Devi pulire la superficie e allora attacca. Ah, ma io ci credo. A chi? Proprio oggi sono andato a benedire delle ceneri al cimitero, incontro alcune persone che vanno a visitare i loro morti e mi dico: ah, reverendo, io magari non credo in Gesù, però in qualche cosa ci credo. Dico: brava, chi ti farà risorgere? Ah, ma esiste davvero il paradiso? Capite, amici? Gente che va a pregare per i suoi morti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Senza Gesù non c'è risurrezione. Senza Gesù i nostri morti sono mucchietta di ossa, oggi di cenere, deposti al cimitero. Senza Gesù noi siamo persi. Senza Gesù noi siamo disperati, senza speranza. E il mondo lo vediamo. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù. E questo, amici, io vi lascio, perché è solo Lui che genera la nostra fede. Sì, io pratico la Chiesa, e chi se ne importa? O pratichi Gesù, o altrimenti cosa pratichi? Gesù, amici, Gesù, colui che genera la tua fede e che la porterà a compimento. È musica, ma classica.